Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ascolti altissimi anche in Italia per la semifinale di ieri sera, la seconda tra Germania e Spagna. Più di 11 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1, a cui vanno sommati, questo è un altro dato, questo poi è esatto al numero perché si tratta di decoder, più 1.474.000 fischi col 6,2 di share di Sky, e quindi è un totale che arriva al 55% di share e a 13 milioni di spettatori. Ci aggiungiamo quel po' di Svizzera, quel po' di Capodistria, sono davvero tantissimi, anche se sono lontani, ovviamente non essendo l'Italia direttamente coinvolta, dal nuovo record storico che ha fatto registrare la TV tedesca, 31,1 milioni di telespettatori. Il record precedente era di 29,66 milioni registrato durante le semifinali del 2006 contro l'Italia. Quindi, nonostante quel mondiale fosse stato giocato in casa per la Germania, ieri la nuova Germania battuta dalla Spagna è stata seguita da 1,5 milioni di spettatori in più rispetto a quello, insomma, alla massa di persone che seguirono Germania-Italia sempre semifinale del 2006. Non è male. Anche oggi potete intervenire quando meglio credete, in attesa del nostro collegamento con il Sudafrica, con Fabio Tavelli. Nel frattempo non mancano né le voci da ascoltare né i vostri commenti. Il migliore stavolta l'editoriale è firmato Marco Traversi, che è un aficionato di questo programma e di tutti i suoi derivati, tipo blog, tipo mail, tipo posta, e è un intenditore di calcio che sa usare l'ironia e scrive: volevo dire un paio di cose, forse anche tre. Prima, l'Olanda tiene sempre 6 uomini al limite dell'area avversaria, questa è una delle cose sentite, delle amenità sentite ieri. 2, Balotelli spacca la partita. 3, Snyder è meglio di Pelé. A me invece ricordo uno Schillaci più fortunato, versione Italia 90. 4, la mano di Suarez, siamo nel 2010 e ancora non si sfruttano i nuovi mezzi tecnologici, ci vorrebbe un bel televoto con opzioni. PS, nel basket assegnano il canestro, è vero, nel rugby la metà tecnica, nel Monopoli c'è anche un cartoncino arancione con scritto uscite gratis di prigione se ci siete. Nel pallone invece un disgraziato si inventa portiere, si fa cacciare, si aggrappa un tiro da 11 metri in una porta larga 7 difesa da Muslera, però la palla non entra, si va ai rigori, il tiratore che pochi minuti prima ha colpito la traversa la mette l'interno destro in scioltezza nel 7 e Muslera ne para 2. Per questo amo il calcio, scrive Marco Traversi. Ci sono moltissimi altri messaggi, per esempio questo molto carino, le scrivo dalla sala di attesa dell'aeroporto di Hanoi, quindi non esattamente dietro l'angolo. A me la Spagna diverte sempre, anche se poi non segna, è piacevole anche soltanto assistere al perfetto controllo di palla, ai passaggi precisi, agli stop impeccabili, ai dribbling che riescono a più di un giocatore. La Germania non è stata deludente, semplicemente è stata sovrastata tecnicamente da una squadra che ha giocato una partita difensiva perfetta basata sul possesso di palla, firmato Claudio Dordi. E ancora, da una parte Robben e Snyder svenduti come fossero brocchi, dall'altra Vicente del Bosque cacciato all'epoca perché reo di non essere un allenatore che amava stare davanti alle telecamere. Comunque finirà questo mondiale, vincerà l'incompetenza di Florentino Perez. Marcello da Milano, molto carino anche questo. Sentiamo Roberto da Padova, buongiorno. Buongiorno, qualcuno mi ha preceduto, comunque volevo dire questo, avevo tante cose perché è tanto tempo che non chiamo, la ringrazio, sempre ottimo programma. Grazie. Faccio due stilettate. Allora, Del Bosque è stato mandato via non perché non andava davanti alle telecamere, ma perché lui aveva fornito le indicazioni per della gente giovane. E diceva che i grandi campioni, più di uno, due o tre per squadra, non ne servono, e io sono d'accordo con lui. Questo uomo probabilmente io glielo auguro, vincerà il mondiale, è una bellissima squadra. Poi, non ultimo, il signor Mourinho, che mi era molto simpatico quando faceva quella pubblicità e apriva l'ombrello prima degli altri, ha aperto l'ombrello perché io sono andato a vedere, questo vi voglio dire giusto per dare atto che ci sono anche dei grandi giocatori, grandi sportivi, malgrado giochino in una squadra avversaria. Io ero a San Siro a vedere il devastante 4-0 dell'andata. Mi accorsi che Zanetti si rivolse ai suoi compagni e disse basta, mentre lui in conferenza stampa disse che c'era un complotto contro l'Inter, probabilmente aveva già deciso di andare via. Tornando al mondiale, noi dobbiamo pensare ai giovani e dobbiamo pensare finalmente che ci devono essere delle qualità, non soltanto del denaro. Non so, questo è quello che penso io. Volevo sentire un suo parere, così, perché mi piace sempre comunque ascoltarla. La ringrazio, la riascolto. Roberto, quando è inutile sottolineare la saggezza, e quindi ha già detto lei, ha detto come meglio non poteva. Io leggo un altro messaggio invece. Davide scrive da Alba: Xavi, 200 palloni giocati, quasi nessun errore, intelligenza, tecnico-tattica, tempi, precisione, personalità, che grande giocatore, un vero piacere vederlo. Io lo chiamo il professore ormai da molto tempo. Devo dire che ieri sera il professore nel primo tempo non mi ha proprio entusiasmato, anzi mi ha lasciato un po' più perplesso del solito. Mi sembrava che non avesse erano cresciuti Iniesta, avere Pedro anziché Torres era tutta un'altra cosa. La Spagna era padrona, è chiaro che la regia di Xavi era come sempre basilare, fondamentale per quella squadra, perché è lui che ti dà i tempi, è lui che ha la scelta esatta della giocata da accelerare o rallentare, un fuoriclasse assoluto. E però nel primo tempo ha avuto qualche piccola imprecisione, a parer mio. È salito di più alla distanza, ma stiamo sempre parlando di livelli stratosferici. La cosa che più mi ha stupito ieri sera di questa semifinale, ma in assoluto proprio, non è stata né la Spagna né la Germania, e nient'altro che la correttezza assoluta di questa. Io non credo sia mai esistita una semifinale mondiale in cui il primo fallo viene commesso al 25esimo e qualche secondo del primo tempo. Secondo me, e mi spiace non averlo aver letto solo due righe di Gianni Mura su questo, per pura combinazione, uno che se n'è accorto, e per pura combinazione era uno come Mura. Non ho visto nessun altro sottolineato con l'enfasi che meritava questo dato: 25 e passa minuti senza un fallo. I falli sono diventati 5 o 6 a seconda dell'interpretazione su un fischio arbitrale alla fine del primo tempo, e sono poi aumentati, ma non in maniera molto significativa, nel secondo. Vuol dire che c'è stata una partita di una correttezza esemplare e c'è stato un grande rispetto anche tra i giocatori in campo. Questo mi, dato che siamo sempre qui a parlare di soltanto gli aspetti negativi, o comunque a cercare la critica più che non l'elogio, questo invece mi sembra che vada detto con le maiuscole, per una volta che succede. Un altro ascoltatore, mentre perfezioniamo il collegamento con il Sudafrica. Marione, provincia di Milano, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Io sono dispiaciutissimo perché lei mi ha bruciato la seconda domanda considerazione che le volevo fare, ed era quella proprio che ha detto nella chiusura del primo intervento. Io infatti non ho visto nessuna entrata cattiva, se non un paio di Xavi Alonso proprio al limite, e nessun accerchiamento dell'arbitro, nessuna protesta, e queste qua, si trattava di una semifinale mondiale, quindi la posta in palio era veramente alta, e volevo appunto sottolineare che queste cose non possono far altro che avvicinare la gente al calcio. La seconda domanda che le volevo fare era: la Spagna ha meritato ampiamente di vincere, ma secondo lei quanto è mancato Thomas Müller alla Germania? Perché secondo me, fra i tanto decantati giovani della nazionale tedesca, questo sia il più forte in assoluto, e secondo me, questa è un'opinione personale, diventerà uno fra i più forti nel giro di 4-5 anni. Anche meno forse, avendo 20 anni probabilmente, gli auguro che manchi meno, a parte che già oggi comunque è un giocatore di grande livello. Difficile dire quanto gli sia mancato, che gli sia mancato è indiscutibile, quanto non è facile quantificare, insomma, però certamente un po' sì. Lei ha detto un promo per il calcio, verissimo, la correttezza. Per la verità c'era stato anche un pestoncino dell'esterno destro del Real nel primo tempo, di Sergio Ramos, però il fatto che per l'ennesima volta anche ieri sera chi perde, e cioè i tedeschi, non abbiano fiatato di fronte a nulla di così eclatante, ma insomma, se verso fine primo tempo l'arbitro è severo, Sergio Ramos può anche non cavarsela molto liscia su Ozil al limite dell'area. Nel secondo tempo l'arbitro ungherese ha certamente ignorato un fallo abbastanza netto di Puyol al limite dell'area, mancava poco alla fine ed era una posizione molto pericolosa perché era davvero al limite, non ha fischiato questo fallo. Ma nell'ambito della correttezza generale dei giocatori, perché ripeto, il primo fallo al 25esimo in una semifinale mondiale è un primato assoluto, e 5 falli nel primo tempo altrettanto, in quest'ambito per Anche in questa circostanza, come già la sera prima, chi perde una semifinale mondiale esce non fiata sull'arbitro e si complimenta con l'avversario che ha giocato meglio. Io non so se i baluba di casa nostra riescono, se questo messaggio gli passa nelle orecchie, oppure se travolto com'è, no? Dalle nostre abitudini e dalle notti mondiali e dalle moviole di Tombolini, comunque, no? Il messaggio non può passare perché abbiamo questo filtro, no? Che ci ottunde lo spirito sportivo. Bentornato Fabio Tavelli, buongiorno. Grazie Gigi, buongiorno. Buongiorno. Dunque, è primera falta, ha detto ieri Aleandro, era il 27esimo forse quando c'è stato il primo intervento falloso. E lui ha detto primera falta, cioè primo fallo. Esatto, primera falta, che insomma, poi tra l'altro pochi, hai detto bene tu, 5 nel primo tempo, direi 16 in totale, però hai detto anche bene un paio un po' clamorosamente ignorati, ma secondo me ne stiamo parlando veramente soltanto noi, ma con questi toni, perché non ho letto da nessuna parte di grandi rimostranze nei confronti dell'arbitro, meglio così, bene così. Certo, difatti. Dunque noi comunque come popolo siamo riusciti a farci riconoscere anche ieri sera, no? Mi pare, non dato che... Sì. No. Ne parla abbastanza con disgusto, nel senso che poi riconoscerci in un idiota del genere mi sembra francamente eccessivo, certo. E anche solo parlarne me la considero una perdita. Dico solo questo, che questa mattina ho letto sul giornale che è aggiornata a sabato l'udienza che vedrà imputato un collega britannico, si chiama Wright di cognome, lavora per il Sunday Mirror, lui ha fatto un po' il furbetto e ha aiutato il tifoso ad entrare nello spogliatoio dell'Inghilterra dopo la partita, sì. Non mi ricordo quale, insomma dopo una partita, credo non se la caverà con un buffetto, né lui né quello che è entrato nello spogliatoio, insomma, per cui... Siccome questo signore era già stato diffidato da entrare negli stadi e tutto il resto, ce lo siamo trovati addirittura qua, io credo che potrebbe fischiare qualche orecchio, insomma sarebbe anche il caso che cominciassimo a fare le persone serie e non i burattini come al solito. Magari fosse vero. Torniamo al tuo amico radiocronista di Cadena Ser. Mi pare di aver visto prima, però non ne sono certissimo, perché l'immagine andava e veniva, di aver visto che voi avete dedicato uno studio, adesso non è l'inviato di Cadena Ser, ce lo racconti dopo, ho sovrapposto due cose, un'immagine, una specie di studio che avete fatto su questo balzo di Puyol ieri sera, quello che ha deciso la partita. Sì, perché ieri sera onestamente a noi è parso veramente una prodezza fisica intanto, poi anche naturalmente calcistica, ma complessivamente fisica. Lui fa una sorta di terzo tempo che a me ha ricordato molto gli attacchi dalla seconda linea della pallavolo, cioè quello che fanno gli opposti, e cioè che non possono pestare la riga, la linea e devono schiacciare dall'altra parte del campo, oppure un terzo tempo di un giocatore di basket, perché o anche il salto di un triplista, cioè lui poi fa una cosa in più rispetto al triplista, cioè incorna e la mette in porta, però fa veramente un movimento fantastico, un po' di dabbenaggine onestamente dei tedeschi che sono andati tutti a marcare Piqué e si sono dimenticati di Puyol, il quale ha avuto la possibilità di fare questi tre balzi e di staccare, e lui di fatto è arrivato a un'altezza che era irraggiungibile anche per un giocatore che è di 1,95 se non di più come Mertesacker, un giocatore bravissimo di testa come Friedrich, cioè l'hanno proprio lasciato, gli hanno lasciato fare il movimento, prendere tutta la forza e tutta l'inerzia possibile per stare su e poi per incornare. Certo. Una prodezza assoluta. Poi hai detto bene, ha rubato il tempo anche a Piqué, perché Piqué era palesemente in procinto di staccare, no? Poi ha sentito il treno. Ma non poteva avere la forza di Puyol, perché Puyol era fermo. Era partito da fuori. Certo. E infatti si è o scansato, comunque non è saltato, non è rimasto giù e ha lasciato tutto lo spazio possibile per lo stacco di Puyol. Bellissimo. Senti, e l'amico di Cadena Ser quanto ha strillato in serata e in nottata? No, guarda te, no, di Onda Sero, ma tra l'altro una sorpresa. È la sorpresa perché ieri sera l'abbiamo vista insieme nel cinema qui dell'International Broadcast Center e l'abbiamo vista in 3D con gli occhialoni neri e tra l'altro pieno di tedeschi, quindi in netta maggioranza. io mi aspettavo di trovarlo ultra scatenato, invece l'ha guardata in una maniera molto molto tranquilla, però poi gli ho detto, ero molto più eccitato io di lui dal momento, poi gli ho detto guarda che ci vediamo alle 23.30 in studio, lui mi ha detto sì sì assolutamente, poi ti chiamo, poi arrivo, e poi invece alle 23.25 mi ha chiamato, io sentivo gli schiamazzi pazzeschi, erano in onda su Onda Zero e stavano facendo il cinema, e credo che l'abbiano fatto per tutta la notte, perché lui mi aveva dato appuntamento all'1:30 qui all'IBC oggi, ma ancora il telefono spento, credo che lui e gli altri spagnoli prima delle 4 o delle 5 oggi non li vediamo qui al Broadcast Center, ma è legittimo, è normale. Certo, certo, d'altra parte sto leggendo agenzie che arrivano dalla Spagna, a parte i titoli, perché quelli di Barcellona hanno titolato tutta pagina El Pujolasso, che è bellissimo, no? Che è il golasso di Puyol, la personalizzazione. Neanche Giuseppe Altafini avrebbe fatto, no, non gli viene in mente nemmeno, è molto bello, nemmeno è molto bello. Il Pujolasso, la personalizzazione del golasso. Comunque raccontano queste agenzie che i festeggiamenti sono iniziati immediatamente a fischio finale e sono stati veramente milioni e milioni, come avrebbe detto Biscardi, di persone in giro per le strade, ma in tutta la Spagna, cioè dalla Galizia a Barcellona, a Siviglia, Paesi Baschi, isole, cioè nessun separatismo per una notte, no? Che poi era anche no, a maggior ragione Gigi, se consideri che la chiacchiera che abbiamo fatto noi nei giorni scorsi era: ma come mai il sindaco di Barcellona vieta maxi schermo e tutto il resto e altre amenità? Però poi in realtà questa è la Spagna, ma questo è il Barcellona, perché ieri c'erano 7 giocatori in campo del Barcellona, dobbiamo considerare del Barcellona naturalmente anche David Villa, pur se il Guache non ha mai giocato una partita con il Barcellona, però insomma 7 su 11 mi sembra un bel blocco, perché c'erano soltanto Casillas, Sergio Ramos e Xabi Alonso del Real Madrid e Capdevila del Villarreal, quindi insomma, è chiaro che i catalani tifavano anche il Barcellona, e quindi è una Spagna molto targata Barcellona. Senti, scrive Massimiliano da Treviso, dice: buongiorno, ha notato che nessun tedesco avversario una lacrima? Questo non vuol dire che non fossero dispiaciuti, ma io amo questa loro dignità. Beh, è molto bello questo messaggio. Sì, è molto bello, è molto vero, io non ci trovo niente di male nel commuoversi, no, ma difatti, né prima né dopo, quindi non penso che chi pianga sia un... Ma tutt'altro, intendo dire che per noi latini invece siamo più vicini a Maradona, al modo in cui, no, che poi Maradona non ha pianto tutti gli altri, ma siamo più vicini a questo tipo di reazione emotiva forte. Però forse sì. Per questo c'è ammirazione per chi invece, come dire, la prende in maniera più virile, perché siamo poi sempre nell'ambito del pallone, non molto più in là. No. Non c'è dubbio, però io su queste cose credo anche tu sarai d'accordo. Non avendo fatto noi gli atleti a questo livello, trovo che davvero sia quasi impossibile calarsi completamente nella parte di un giocatore che arriva a un momento così importante e o vince o perde, quindi davvero qui siamo tutti diversi e ci sta tutto, ci sta la lacrima o anche ci sta il volto di Schweinsteiger, che è duro fino alla fine, certo, e che esce guardando tutti negli occhi, giustamente, tra l'altro. Assolutamente, un minutino circa. Mi piacerebbe che in previsione di domenica, anche perché domani, causa lo sciopero dell'informazione, non andremo in onda e quindi non ci sentiamo. In previsione di domenica, poi vi do il palinsesto esatto invece di domenica sera, che è ampiamente rafforzato. Mi piacerebbe che tu ci anticipassi così qualche spunto su questa vigilia olandese, perché probabilmente, non so, io non ho fatto i conti esatti, ma non saranno in molti quelli che erano già nati. Quelli che giocheranno e che erano già nati quando ci furono le due semifinali agli anni 70, anzi, credo di no. Il più datato di tutti è Bosker, che è un portiere del Twente del 1970, ed è il terzo portiere, e insomma ha un'età che insomma, veneranda. Forse il mio di mestiere, non più quello del calciatore. In ogni caso, quello che si avvicina di più alla mia data di nascita, pur se vinco io di un annetto. Vinco io in negativo perché sono nato prima. Comunque, Bosker c'era nel 70 e quindi ha visto certamente con degli occhi attenti la finale del 78, magari un pelino meno quella del 74. Poi c'è Hoyer, che è del 74, ma è nato l'11 luglio, la finale del 74 fu il 7, quindi lui nemmeno in fasce, nemmeno in culla. C'è Van Bronckhorst, che è un 75, quindi può aver visto qualcosina della finale del 78, e poi c'è Van Bommel, che è del 77, che di fatto non ha visto nessuna delle due, credo, per cui. Mentre invece nella Spagna ci sono Capdevila e Puyol, che sono del 78, però sono tipo di marzo, di questi mesi, primi mesi dell'anno, e quindi è evidente che la finale del 78 possono averla vista solo se la stavano guardando i loro genitori e loro erano tra una poppata e l'altra, o tra un pannolino e l'altro, insomma. Faremo in tempo ad aggiornarci domenica sera, prima, durante e dopo. Grazie a Fabio Tavelli. Grazie, buona giornata a tutti. Oh, torniamo in onda con qualche avviso per i naviganti, cioè qualche informazione. Vi dicevo che domani a Tempo di Sport non va in onda per lo sciopero dei giornalisti, poi ci saranno invece programmi che andranno regolarmente in onda, questo no. Ci sentiamo, cioè ci diamo sin d'ora appuntamento, per quel che mi riguarda, a domenica in occasione della finale ci sarà una doppia edizione di A Tempo di Sport, alle 17 alle 20 affidata a Carlo Genta con la mia collaborazione, e poi dalle 22:30 in avanti fino a mezzanotte almeno, ma insomma poi vediamo, perché si può anche tentare ad oltranza il dopo finale mondiale Spagna-Olanda. Quindi l'appuntamento che salta domani viene ampiamente recuperato domenica sera in occasione della finale. Prima degli amici già collegati dalla provincia di Mantova, da Milano, da Roma, mi piacerebbe sentire, perché tanto ormai con tutta la ripugnanza possibile mi pare che sto polpo abbia tracimato. Sentiamo cosa ne dice addirittura niente meno che Zapatero. Ha parlato con Angela Merkel, presidente, después del partido? No. Espero que se produzca una llamada. Espera que la llame ella. Estoy preocupado por el pulpo. Creo que debería. Estoy pensando si mandar un equipo de protección al pulpo, porque evidentemente ha sido muy espectacular que haya acertado allí y con la victoria de España. In pratica è preoccupato Zapatero, ironicamente, è ovvio, perché avendo, dopo tante vittorie della Germania, avendo previsto e azzeccato quella della Spagna, non vorrebbe capitasse al polpo qualcosa di disgradevole. Vittorio, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una considerazione. E questo mondiale mi ha colpito molto la sportività degli allenatori, degli addetti al lavoro, perché con quello che è successo, insomma, in alcune partite con gli arbitraggi, così io pensavo il giorno dopo di leggere sul giornale lamentele, niente, non è successo niente, quasi sono rimasto spiazzato, visto le porcherie che ci sono in Italia, visto come siamo abituati noi, sì, spiazzato completamente. Ho detto adesso domani chissà quello dice dell'arbitro, chissà Tabarez, chissà Love, no, chissà il rumore dei nemici, certo. Le manette, le cose, no, e invece questi accettano la sconfitta, cosa vuole, non tutti possono essere speciali, no, e quindi bisogna anche accontentarsi di questi signori, no, anziché degli speciali. Marco, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, guardi, io volevo intervenire anche proprio sulle ultime cose che avete detto. La mia è una curiosità, poi se lei sa rispondermi. C'è un mondiale, si parla sempre comunque con riferimenti all'Inter, a Mourinho, e il telescopio, quello di prima che dice solo 0-4, Zanetti ha detto basta, poi Mourinho avrebbe parlato dopo. Innanzitutto Mourinho ha parlato al derby di ritorno quando l'Inter è rimasto in 10. Poi io non capisco tutto questo accanimento. Cioè, voglio dire, ha vinto tutto come mai nessuno, ha scelto di andare via, ha detto cose vere, mi pare che in pochi paesi esteri c'è un piede in processo di calciopoli, come in Italia, quindi dobbiamo anche un po' guardare noi nella nostra complessità di nazione. Sì, certo, e agli arricchimenti che ci sono arrivati dall'estero in tempi recenti. Grazie Marco. Andiamo a Roma, da Giulio, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io seguo sempre con grande interesse, quando sono in autostrada, alla sua trasmissione. Premetto, sono un prete e sono anche un collega, un giornalista missionario. Perché faccio questa premessa? Perché chiaramente ho un grande interesse per l'Africa e in questo momento l'interesse è rivolto anche al calcio del cosiddetto continente nero. Sì. E volevo fare così un'osservazione che ho colto, ho registrato proprio le settimane scorse viaggiando sia in Uganda che in Kenya, perché ho avuto modo di incontrare dei calciatori africani, alcuni dei quali diciamo professionisti poi per modo di dire, perché sono comunque sempre calciatori part time, anche perché effettivamente da quelle parti si fa fatica a sbarcare il lunario. Yeah. E abbiamo parlato in generale su quelle che sono le condizioni del calcio a livello continentale. La questione di fondo qual è? E devo dire che sono davvero testimone oculare. Le potenzialità vanno al di là di ogni fantasia e immaginazione. La verità di fondo è che però l'Africa è ancora oggi, anche per quanto concerne il calcio, terra di conquista a tutti gli effetti. Ci sono cacciatori di gambe e di teste che vengono dall'Europa e non solo dall'Europa. E non da oggi, eh? E non da oggi. Non è un fenomeno recente, ma tornando indietro con la moviola della storia, ci sono nomi eccellenti che poi, per carità, hanno fatto fortuna in Europa, in Italia, ma comunque il punto è un altro. Mi hanno fatto una proposta e mi hanno chiesto di scriverla sulle nostre riviste e così volevo anticiparla. La proposta è questa. Loro dicono: il mondo oggi è globalizzato e c'è un organismo internazionale che si chiama il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che in una maniera o nell'altra cerca a fatica, ahimè proprio a fatica, non solo di dettare le regole del gioco, soprattutto di dare degli indirizzi in maniera che in una maniera o nell'altra tutti riescano ad affermarsi, anche se poi purtroppo a vincere sono sempre i potenti, no? Quelli che hanno il salvadanaio. Ora, l'osservazione che loro facevano è questo: c'è bisogno di equità anche nel calcio, perché il divario nord-sud non è un problema che riguarda solo l'economia, ma riguarda anche lo sport. Allora, quello che chiedevano: ma sarebbe possibile ipotizzare a livello internazionale una sorta di fondo per investire nel sud del mondo, particolarmente in Africa? Perché questo, a pensarci bene, guardando le cose in maniera un po' lungimirante, potrebbe sortire degli effetti positivi, sì, benefici, anche per il nostro calcio in Europa. Sì, non è proprio del tutto inedito, detto tra noi, potrebbe essere una soluzione, un inizio di tentativo di soluzione. Grazie per il suo intervento. La notizia appena arrivata è che Rosetti ha chiuso la sua carriera con il clamoroso errore ai campionati del mondo in Sudafrica, perché ha lasciato l'arbitraggio e diventerà designatore per la Serie B. I vice commissari, insomma, dopo il passaggio di Collina all'UEFA, oggi si sono definiti gli organigrammi e quindi il designatore diventa il presidente dell'AIA, e cioè Nicchi, che si avvarrà come vice commissari di Stefano Braschi, dell'ex arbitro Braschi per la Serie A, di Rosetti per la Serie B, di Farina per la Lega Pro e di Tarcisio Serena per la Lega Nazionale Dilettanti. Questo è l'esito della riunione dell'AIA oggi a Roma, ed è un esito indubbiamente a sorpresa, perché Rosetti ha, mi pare, 42 anni, quindi credo che avesse ancora almeno due, se non tre stagioni di arbitraggio attivo a disposizione. Ernesto ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi, io volevo dire una cosa relativa all'allenatore spagnolo del Bosque. E io ho notato ieri la personalità di questo allenatore, che quando David Villa e Pedrito hanno cincischiato e perso delle palle su dei contropiedi, non ci ha pensato due volte a sostituirli, e devo dire che chapeau, perché ha dimostrato una personalità notevole, secondo me. Sai che non sono tanto d'accordo con lei, Ernesto? No, le spiego perché. Sono d'accordissimo su Pedro, perché Pedro ha commesso una grande sciocchezza, a parte il fatto che poi io non sono... Può essere che fosse punitiva la sostituzione, può anche essere che Pedro avesse corso tanto e fosse il caso di risparmiarlo un po'. Io non sono molto d'accordo per questo, perché lui ha tolto Villa, mi pare, all'80esimo, e Pedro poco dopo. Ora, per carità, si trattava di far riposare un po' questi due giocatori per la finale, si trattava anche, come dire, di rinforzare un pochino, come poi è stato fatto anche con Marcena, al posto di Xabi Alonso, mi pare, il pacchetto arretrato di fronte all'assalto finale della Germania. Ma se la Germania trova il pari, con chi gioca la Spagna i due tempi supplementari? Io non... Questa domanda, che mi sono fatto ieri sera ovviamente in diretta, non so dare una risposta molto logica, perché a quel punto, con due cambi fatti e fuori Villa e Pedro, non lo so bene come sarebbe finita. Poi ovviamente tutto è bene quel che finisce bene, ma a quel punto mi era sembrato un tantinello azzardata una delle due sostituzioni. Una ci poteva stare. Aldo Siena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Niente, volevo solo che lei spiegasse a mio figlio la differenza che c'è fra allenatori come Del Bosque e Tabárez, e non solo sul piano tecnico, perché tempo fa Platini diceva che l'allenatore contava per il 10%, io invece nel caso di Tabárez non sono d'accordo, penso che conti di più perché ce l'ha proprio portato di peso l'Uruguay in semifinale, e volevo che lei spiegasse a mio figlio, cosa che non capisce perché purtroppo è interista, la differenza c'è tra questi due allenatori in campo, ma soprattutto fuori e davanti ai microfoni, con Mourinho. Perché siccome ho sentito anche un ascoltatore precedentemente, dice perché parlate ancora di Mourinho, lui ha fatto... No, lui è una persona che magari noi italiani, abituati a un calcio bistrattato, corrotto, brutto, ancora un maleducato, prepotente, arrogante come lui non l'avevamo visto, è per questo che ci stupiamo. E poi un'ultima cosa, per favore, l'ascoltatore di ieri che disse che Snyder vale Messi, per favore interdetelo per tutta la vita da Radio 24. Interdizione dai pubblici uffici calcistici, invoca lei. Aldo, mi risparmi il pistolotto al bimbo, perché mi sembra che il subabbo sia in grado di spiegargliele abbastanza a modino le cose, no? Mi pare. Poi ovviamente con l'opinione contraria e legittimamente contraria di chi invece di Mourinho ha fatto un idolo, cosa che da un punto di vista strettamente calcistico ci può stare, da un punto di vista dell'educazione sportiva è una bestemmia dal mio punto di vista, e mi pare di capire anche dal suo. Torniamo ricordando il calendario, e quindi sentendo, non l'ha registrato oggi purtroppo per ragioni tecniche Nicola Filippone, ma insomma vediamo che cosa ci ha mandato per ricordare nella storia dei mondiali il giorno 8 luglio. Sembra ieri. Il sogno dell'Argentina di vincere il secondo mondiale consecutivo e il terzo in totale, raggiungendo così Brasile e Italia, si infrange contro la Germania Ovest. Siamo al giorno 8 luglio 1990. Il va in scena all'Olimpico a Roma il remake della finale disputata 4 anni prima a Città del Messico, ed è la Germania a eguagliare il primato di trionfi mondiali detenuto da Italia e Brasile. La finale dell'Olimpico, gara molto spigolosa e avara di bel gioco, scrive Nicola Filippone, io potrei dire anche di peggio, avendola purtroppo vista, viene risolta da un calcio di rigore segnato da Breme all'84esimo. La direzione di gara del messicano Codesal scatena l'ira di Maradona e compagni, che chiudono la gara in 9 per le espulsioni di Monzon e De Zotti. Con il trionfo conseguito alla guida della Germania, Beckenbauer diventa in questo modo il secondo a conquistare la Coppa del Mondo sia da calciatore che da allenatore, dopo il brasiliano Zagallo. Non abbiamo trovato contributi vocali particolarmente interessanti su quella finale di 20 anni fa, esattamente 20 anni oggi, dell'Olimpico, tra vinta dalla Germania sull'Argentina. Abbiamo trovato però, credo dello stesso giorno o forse dell'indomani, il rimpianto per il mancato gran finale delle notti magiche da parte dell'allenatore, del commissario tecnico italiano Vicini. 6 vittorie e un pareggio suonano una beffa confronto all'Argentina, che è arrivata seconda, che su 7 partite ne ha vinte 2, noi ne abbiamo vinte 6, insomma, quindi qualcosa non ha funzionato anche nel piano della buona sorte, che ritengo che come nella vita abbia sempre un peso. Eh sì, quello era un mondiale che indubbiamente poteva concludersi meglio. Sempre l'8 luglio, ma stavolta dell'82, fu il giorno delle semifinali del mondiale spagnolo. Nel pomeriggio l'Italia batté la Polonia 2-0 a Barcellona con 2 gol di Paolo Rossi, e in serata la Germania Ovest a Siviglia la spuntò ai rigori sulla Francia dopo una partita decisamente drammatica, oltre che affascinante. C'è anche un ascoltatore oggi che la ricordava, adesso vado a pescare, eccola qua. Matteo Cavallucci di Pescara ha scritto: ieri sera dopo la semifinale Spagna-Germania, che ho trovato noiosa e bruttina, mi sono rifatto gli occhi su ESPN Classic, dove hanno ridato Francia-Germania dell'82, partita meravigliosa che ricordo di aver visto all'epoca, avevo 10 anni, insieme a mio padre, ancora sbronzi per la semifinale del pomeriggio. Quella sera, alla mia domanda su chi Per chi avrebbe tifato, mio padre mi rispose per i supplementari, evidentemente, e tra l'altro infatti gli diedero ragione, perché quella mezz'ora in più certamente non fece bene alla Germania in vista della finale poi di domenica contro l'Italia. Mario ha chiamato da Mantova, buongiorno. Dottor Cazzini, buongiorno. Dica. Tre domande flash. Sì. La prima, Olanda-Spagna è la giusta finale di un mondiale che secondo me tra, negli ultimi mondiali forse è il migliore a livello di qualità, anche dovuto al fatto delle crisi, collegato al fatto che le grandi sono in crisi. Sì. La seconda cosa, finalmente mi sembra che la mia Juve abbia una società che abbia del polso, quindi spero che ci sia una buona annata. E vedo la Spagna che con il blocco della squadra che ha vinto il mondiale Under 20 ha vinto il campionato europeo ed è in finale dei campionati mondiali. Quanto incide secondo lei nella nostra crisi della nazionale il fatto di avere un Under 21 che non è più lo stesso Sassi degli anni che furono? Perché abbiamo un momento incide, sì. Secondo me un po' in crisi. Incide sì, Mario, mi pare che questo valga per la Germania, vale per la Spagna, ma vale anche per le sudamericane. Insomma, chi ha ricambio, chi ha una generazione di talenti di ricambio, ovviamente sta molto meglio di chi invece in quel momento ha una generazione, come dire, di passaggio. Lei mi domanda se Spagna-Olanda è la finale più giusta. Non è quella che io preferisco. Per me la finale ideale sarebbe stata Spagna-Brasile. E credo anche che, con tutto il rispetto per l'Olanda, credo che avrebbe avuto tutto un altro fascino, un altro richiamo. Credo sarebbe stata anche nettamente più spettacolare. Però quella partita l'ha vinta l'Olanda. E l'ha vinta l'Olanda... Sì, per meriti suoi, perché è stata, come dire, brava ad accettare, a sfruttare i regali assurdi dei brasiliani. Ma insomma, se lei mi chiede se è la finale più giusta, sì, perché ha sempre ragione chi va avanti. Quella che avrei preferito io, no, sarebbe stato Brasile e Spagna. Giampaolo, provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini, mi scusi. Mi sono collegato da poco, non so se questa domanda gliel'hanno già fatta altri ascoltatori. Mm-hmm. Ritorno alla semifinale di ieri sera. A me è sembrato che la Germania non abbia giocato come ha giocato le prime 5 partite, mentre la Spagna sì. Mm-hmm. Sempre lo stesso tipo di partita. Volevo chiedere se lei era d'accordo con questa mia analisi. Sì. E se lo era, volevo chiederle infine se questo è stato per merito della Spagna, che la Germania non ha giocato così, oppure se è stata voluta l'interpretazione difensiva e di rimessa dalla Germania. Credo che la Germania si fosse un po' ben abituata, perché le ultime due partite erano sì partite di grande richiamo, prestigio, difficoltà apparente, ma erano contro due squadre squinternate come l'Inghilterra prima e l'Argentina poi. Trovarsi di fronte di colpo una squadra invece così organizzata, pur sapendolo prima, insomma, pur preparandosi mentalmente, gli ha complicato un po' le cose. Non gli mancava Müller, hanno capito all'inizio che era dura andargliela a prendere la palla e quindi ha cominciato a girare un pochino a vuoto, cosa che non era mai successa nelle partite precedenti. Anche in quella persa con la Serbia comunque avevano sempre creato molto di più. Dopodiché la Germania è stata secondo me brava in una serata così difficile a creare grosso modo fino al gol di Puyol le stesse occasioni come numero della Spagna, ma tenendo la palla molto molto meno, quindi entro certi limiti la loro efficacia, la loro praticità l'hanno dimostrata lo stesso, ma era chiaro che l'iniziativa era quasi tutta spagnola e che a gioco lungo con ogni probabilità sarebbe stata la Spagna, come poi è stato molto giusto a spuntarla. C'è Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno, in parte era la considerazione che ha fatto lei, cioè io ho visto una partita non da tifoso perché l'Italia ormai è a buon malutivo, sta fuori, e io ho visto una squadra, la Spagna, e non si discute campione d'Europa, innamorata della palla, che sembrava volesse entrare con il giocatore dentro la porta direttamente, su spazi strettissimi, ma che pronostico con l'Olanda? Premesso che per me la Germania finora, per gioco lineare, pulizia di schemi, roba del genere, mi è sembrata un'ottima squadra. Sì, beh, sai, io credo che una finale sia sempre difficile da... cioè qualunque partita è difficile indovinare, una finale ha maggior ragione. Credo non sia invece così difficile immaginare come possa andare la partita, perché è ovvio che la Spagna, con la Spagna di mezzo non è difficile appunto indovinare il canovaccio, perché la Spagna sa giocare un calcio solo, che è quello del possesso palla, che è quello del controllo e dell'occupazione progressiva del campo. La domanda a proposito della Spagna è sempre un'altra, semmai è: riusciranno a far nel loro possesso palla, riusciranno a farla correre veloce, cioè a essere dinamici in questo tipo di manovra, oppure saranno un po' sterili e saranno un po' stucchevoli? È sempre lì. Spesso e volentieri erano stati stucchevoli in questo mondiale, ieri sera lo sono stati molto meno. E tenuto conto dell'opposizione avversaria, della forza dei tedeschi, a maggior ragione lo sono stati meno, no? Quindi ha giocato una partita di qualità superiore. La Spagna è in crescendo, indubbiamente. L'Olanda non ha ancora perso un colpo. La Spagna si è tutto sudato, l'Olanda ha avuto dei botti di fortuna tutt'altro che indifferenti, e domenica sera il regolamento dei conti ce lo godiamo. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento, ripeto, non a domani per lo sciopero dell'informazione, quanto direttamente a domenica dalle 17 alle 20 e soprattutto poi dalle 22.30 alle 24. Buon pomeriggio. A tempo di sport.